scandire passare del tempo. Quando si è soli a pensare di noi, cos'è stato? Quante speranze e sogni perduti nel vento. Un nodo attanaglia la gola e il nostro passato. Forse era meglio non averle mai avute. Tutte le cose che ci han fatto sperare. Resta il rimpianto ora per averle perdute. Ma ci rimane più e meno la voglia d'amare. Senti la vita passata e tutte le cose che hai avuto. Che importa se sono andate, se le hai vissute. Sono sempre con noi le voci di un tempo, ora siamo cresciuti. Ascoltale quando vuoi, sono nel vento. Fanno pensare come in un film la memoria ha i suoi tempi. Si ascolta il cuore poi vorremmo rifare alcune sequenze sbagliate perché poco attenti. Nel film della vita sì, vive un saggio, i momenti di gioia si pagano con altri più amari, il domani è davanti, riprendiamo coraggio, siamo ora pronti alla vita per nuovi amori, sentire una vita rinata. I ricordi e le cose che ho avuto, queste non sono mai andate perché vissute. Sono sempre con noi le emozioni ed il tempo, ora siamo cresciuti. Afferrale quando vuoi in ogni momento. Sentire una vita rinata, tutte le cose che ho avuto, queste non sono mai andate perché vissute. Sono sempre con noi le voci di un tempo, ora siamo cresciuti. Ascoltale quando vuoi, sono nel vento.